rassegna stampa Europa. Buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Purtroppo neanche oggi riusciremo a mettere la parola fine o comunque a dare delle certezze sulle due grandi questioni che agitano i tavoli europei in questo momento, che sono l'immigrazione e la Grexit, perché sono ancora in corso molti negoziati e i dettagli veramente li sapremo probabilmente, soprattutto per quanto riguarda la Grexit, li sapremo poi nei prossimi giorni. Vi segnalo allora degli articoli più generali che forse ci dovrebbero invitare in generale a riflettere su queste questioni, cioè su tutto il grande tema dell'austerity e delle regole che ci siamo dati come rapporti tra paesi, specie quando ce ne sono in difficoltà, come è successo in passato per il salvataggio dell'Irlanda e del Portogallo, come sta succedendo adesso per la Grecia, e poi l'immigrazione. E allora vi segnalo un articolo dalle Soir, un quotidiano belga, che si intitola Solidarietà a senso unico. Jean-Claude Juncker, il presidente della Commissione europea, è lussemburghese, quindi viene proprio da quell'area, è molto conosciuto dal quotidiano Le Soir, e proprio Le Soir parte da una dichiarazione di Jean-Claude Juncker del 29 aprile: sappiamo bene che forse tra sei mesi l'opinione pubblica avrà cambiato completamente idea, e il tema era proprio quello dell'immigrazione. In realtà l'opinione pubblica, adesso chiamarla, definire l'opinione pubblica sul tema dell'immigrazione è estremamente complesso, ci sono tanti pareri diversi, però Le Soir conclude: ostinandosi ad affrontare questi problemi a livello nazionale, perché poi non c'è soltanto un'opinione pubblica nazionale difficile da decifrare, ma in questo caso ci sono 28 opinioni pubbliche nazionali. Ecco, allora i paesi europei, scrive Le Soir, vanno contro i loro stessi interessi. È proprio perché la questione va al di là dei singoli stati che c'è bisogno di un'azione comune. In un'unione di 28 paesi questo non può significare nascondersi dietro la base volontaria, a meno che di non voler continuare con le buone intenzioni e le lacrime di coccodrillo. E purtroppo, aggiungo io, a volte non ci sono neppure quelle, perché stanno crescendo delle posizioni talmente dure sull'immigrazione che appunto non ci si sta diventando quasi anestetizzati di fronte alle persone che muoiono in questo momento, in questi mesi, attraversando uno dei corridoi più importanti, cioè in questo momento, cioè quello che dalla Libia attraverso il Mediterraneo porta in Italia e in Grecia. Ma in realtà ci sono anche tanti altri corridoi usati soprattutto in inverno, per esempio quello delle rotte balcaniche, dove i morti tra l'altro probabilmente ci sono, ma non ne veniamo neppure a conoscenza. Sempre sull'egoismo dell'Unione Europea, sul tema più generale, è intervenuto anche l'Economist, un articolo tradotto da Internazionale della scorsa settimana. Sapete che gli articoli dell'Economist non sono firmati, però in generale proprio interpretano l'opinione del settimanale, che è un settimanale conservatore, ma sempre molto basa le sue opinioni sui dati e sui ragionamenti. E allora il titolo, l'egoismo dell'Unione Europea, l'Economist scrive: sull'immigrazione come sull'economia, i paesi europei passano il tempo a discutere di concetti astratti e saranno i migranti a pagarne le conseguenze, o magari i greci più poveri, perché come abbiamo letto in tanti articoli, tanti reportage nei giorni scorsi dalla Grecia, i greci ricchi, che poi sono da sempre i grandi evasori greci, non sono poi così preoccupati, almeno da quello che viene dato sapere dai corrispondenti, perché non si sentono più di tanto minacciati né dalla Grexit né dalle misure che il governo greco dovrà prendere, sta promettendo di prendere, in particolare sul regime pensionistico. Conclude, vi leggo la parte finale dell'articolo dell'Economist: sull'immigrazione il rischio inevitabile è che il dibattito sui ricollocamenti distragga da due questioni ben più serie: le tragedie umane che in primo luogo hanno indotto l'Europa a agire, e la violenza e la povertà che costringono tante persone a rischiare le loro vite per avere un futuro migliore all'estero. Come la carità, la solidarietà comincia a casa propria, ma non dovrebbe finire lì. E a proposito di immigrazione, vi segnalo che l'intervento che abbiamo sentito di Matteo Renzi, che in Italia è stato pubblicato dalla Stampa, è stato pubblicato anche da tanti quotidiani europei, sui quali, soprattutto se andate a vedere sui siti, è stato poi commentato. L'intervento di Renzi appunto è stato pubblicato in Spagna da El País, in Gran Bretagna dal Guardian, in Francia da Le Monde e in Germania dalla Süddeutsche Zeitung, e me ne ricordo dei piccoli passi. Certo, è stato accusato e forse anche non del tutto a torto di usare molto la retorica, perché poi sapete che nel pratico, per esempio, noi italiani veniamo accusati, per esempio, da Cameron di non avere un sistema di riconoscimento e di identificazione efficace dei migranti, e da qui il rifiuto, per esempio, della Gran Bretagna di cambiare le quote di accoglienza dei rifugiati, perché dice voi italiani, prima di tutto, prima di premere per questa soluzione, dovreste imparare a riconoscere e a farne una schedatura, il termine molto brutto, però molto corretta e precisa, come quelle che si fanno in Gran Bretagna e anche in Germania, che ricordiamo ha 3-4 volte tanti rifugiati attualmente che ha l'Italia. In ogni caso, queste sono le parole del Premier. La domanda di pace di cibo che costringe migliaia di donne e uomini, talvolta con i loro bambini, a rischiare la morte per raggiungere l'Europa, non è iniziata oggi e non finirà domani. Chi si illude di fermarla con un tweet o un post su Facebook vive in una realtà parallela. La storia dell'umanità è segnata dai flussi migratori e solo la paura può permettere alla superficialità demagogica e talvolta razzista di abitare la politica europea con sempre maggiore forza. E questo era appunto, come vi dicevo, l'intervento pubblicato su tanti quotidiani. Cambiamo argomento decisamente, perché c'è stata un'intervista rilasciata da Alessandro Benetton, l'erede della seconda generazione della grande famiglia di imprenditori veneti. Ha rilasciato un'intervista alle Figaro per parlare di tutti gli investimenti che la sua società di investimenti, che si chiama 21 Partners, che è un fondo di private equity specializzato in particolare in piccole e medie imprese, vuole fare in tutta Europa, quindi non solo in Italia, ma anche in Francia, Svizzera e Polonia. Scrive Le Figaro. Tra l'altro, questa 21 Partners è da un po' che esiste in Italia, come vi dicevo, ha fatto tanti investimenti. Risale la fondazione di questo fondo, la nascita di questo fondo, al 1992. E quindi, scrive Le Figaro, aveva solo 26 anni e alcuni dubitavano della sostenibilità del suo business, del business di Alessandro Benetton. Seguace però della teoria del pensiero laterale, secondo cui grazie all'immaginazione è possibile ritrovarsi dove meno ci si aspetta, Alessandro riesce nel suo intento. E vengono poi descritti appunto gli investimenti di successo, ma viene vista soprattutto con favore questa idea che un fondo di private equity italiano, e in Italia fondi di private equity puramente italiani ce ne sono veramente pochi, venga appunto dopo essersi consolidato sul mercato interno, guardi all'estero, guardi all'Europa. E poi un altro piccolo orgoglio, piccolo grande orgoglio italiano, la Giulia, la macchina che si chiama come me, fa anche parte un po' della mia infanzia, perché io sono del 69 e quando ero più piccola c'era mio papà ne possedeva una, poi naturalmente è uscita di produzione. Adesso, come sappiamo, mercoledì è stata ripresentata in grande stile ad Arese, in quello che fu uno storico stabilimento dell'Alfa Romeo, e molti quotidiani l'hanno ripresa su tantissimi siti di quotidiani. Le gallerie di questa macchina sono state quelle più viste anche sul nostro, per la verità, anche su quello del Sole 24 Ore. E allora ha scritto Financial Times il giorno dopo, giovedì: dopo la presentazione alla stampa internazionale del rinnovato museo di Arese, saranno i dealer a scoprire la nuova Giulia, il primo modello di quello che Harald Wester, CEO della marca, ha definito il rinascimento dell'Alfa Romeo. E se le reazioni del mondo professionale, quello per cui una nuova auto rappresenta sostanzialmente un elemento di business, saranno entusiastiche come quelle registrate ai giornalisti arrivati da tutto il mondo, c'è da credere che le previsioni di Sergio Marchionne, 400.000 Alfa Romeo vendute ogni anno entro il 2018, saranno pienamente confermate. Tra l'altro, appunto, questo era Financial Times, però per esempio c'è stato un altro quotidiano, lo spagnolo ABC, che ha definito la Giulia il nuovo standard dell'Alfa, che incarna il paradigma del cambio della marca. E poi ci sono anche le riviste specializzate che hanno già commentato la presentazione appunto della nuova Alfa. Per esempio, Express ha sottolineato il grande sforzo che è stato fatto per differenziare la Giulia dai modelli tedeschi con cui dichiaratamente si vuole mettere in competizione, e in questo affollato segmento delle cosiddette premium compatte. Vi segnalo infine un articolo apparso su El País. Sapete che a Madrid e Barcellona ci sono due nuovi sindaci donne che vengono dai movimenti come Podemos, e a Madrid, come uno delle prime annunci della giunta comunale di Madrid, è stato che 100 milioni che devono essere destinati a progetti per la città, questi 100 milioni verranno destinati però dopo una consultazione con i cittadini. E El País sottolinea come questa idea di cercare di consultare i cittadini, presumibilmente quasi sempre con internet, perché è il modo un po' più meno costoso e in un certo senso anche più sicuro e capillare, è anche un'idea in Italia del Movimento 5 Stelle. Vi segnalo infine un'ultima cosa che mi è piaciuta molto sulla Brexit. Sapete, la possibile uscita della Gran Bretagna non dalla zona euro, a cui la Gran Bretagna non appartiene, ma addirittura dall'Unione Europea. La decisione verrà presa con un referendum che sarà con ogni probabilità entro il 2016. Ieri è intervenuta la regina e la regina ha auspicato che tutti questi tavoli tra eurogruppi e premier e capi di Stato europei si focalizzino sul preservare i valori europei, e si è auspicato la regina anche che la Gran Bretagna non esca dall'Unione Europea. Speriamo davvero che sia così, che sia appunto solo un'ondata dell'ondata di anti-europeismo che Cameron ha dovuto affrontare, ma per poi vincere le elezioni. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.